nel mondo, 156esima trasmissione dedicata agli emigrati, il Friuli e le sue canzoni nuove. Vi trasmettiamo oggi, cari amici radioascoltatori, un secondo gruppo di canzoni inedite che sono state quest'anno lanciate nel corso del Festival della Canzone Moderna Friulana a Pradamano e della festa Il Grillo d'Oro di San Giovanni al Natisone. Due piacevolissime manifestazioni canore del 1966 che per la spontaneità dei testi e per la bravura dei cantanti dilettanti sono state sottolineate da consensi e da applausi del numeroso pubblico. Di Lucia Scozziero e Sandro Cimiotti ascoltate la canzone dal titolo Se non torne, eseguita dal complesso vocale diretto da Olinto Contardo con il quintetto I Gabbiani. Adriana Pozzetto, con l'orchestra della canzone friulana, diretta da Franco Russo, interpreta la canzone dal titolo Come lagrimis di Stelis, di Federica e Aurelio Cantoni. come lacrimis di rosis, duce amor a sol passas, ma distes, io sinto di il clar de vite me, alis d'amor cirit chiatai il clar de vite me. Grazie. Ed infine, con l'orchestra diretta da Olinto Contardo, i bambini Franco Braidotti ed Hermes Dolso eseguono rispettivamente le canzoni dal titolo Il Frut di Bertiul, di Bruno Degano, e Squelar Furlan, di Raffaello Scarton. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.